Cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Questo romanzo ricorda un po' le atmosfere di alcuni romanzi sudamericani, perché c'è il sogno, c'è la magia, c'è la premonizione, c'è l'oracolo. Insomma, ci sono alcune delle caratteristiche tipiche dei romanzi sudamericani, ma l'ha scritto un'italiana, Arianna Cecconi. Il romanzo si intitola Teresa degli Oracoli, pubblicato da Feltrinelli. Tutto gira intorno ad un personaggio, ad una donna anziana, Teresa. La storia in realtà è raccontata da sua nipote Nina, una donna di circa 35 anni. Dicevamo che il centro di questa storia, il cuore di questa storia, è nonna Teresa. Teresa ha due figlie, Irene, che è la mamma di Nina, e poi c'è anche Flora, che è la zia di Nina. Tranquilli che poi riuscite a seguire tutto questo albero genealogico. E poi accanto a Teresa c'è anche la cugina Rosy e c'è Pilar, che è, diciamo, una sorta di domestica badante. Teresa, dicevamo, è una donna anziana, ha passato gli ultimi 10 anni della sua vita in totale silenzio. Queste donne hanno trasferito il suo letto nel salone, nel soggiorno di casa, e l'hanno considerata una presenza normale, anche se questa donna appunto è stata in silenzio 10 anni. Poi Irene e la stessa Nina andranno via da questa casa. Nel momento in cui Teresa sta per morire, tutti naturalmente corrono al suo capezzale, ed è qui che avvengono delle cose un po' magiche, un po' misteriose, perché diciamo che Teresa, attraverso degli oracoli, diciamo così, riesce a far scoprire anche il passato di alcune di queste donne, riesce a farlo scoprire soprattutto ai lettori, ma anche agli stessi personaggi. Allora, Arianna, partiamo proprio dal personaggio di Teresa, che è un personaggio appunto che non parla, ma ha una presenza decisamente ingombrante in questo romanzo. Com'è nata l'idea di Teresa? Beh, l'idea di Teresa è sicuramente, si è ispirata davvero a mia nonna. Mia nonna è stata 10 anni in silenzio, quindi questo suo silenzio era molto legato a mia nonna. Era abitato da noi, l'abbiamo riempito in tanti modi durante tutti questi anni. E il giorno in cui è morta, effettivamente, io ho cominciato a scrivere questa storia che mi è stata molto ispirata da lei, dalla sua storia, e poi che si è mischiata alle mie storie che ho nel mio percorso di vita, si sono incontrate. Ecco, detto che questa storia ricorda un po' le atmosfere sudamericane, anche è una storia di donne che hanno a che fare con il sogno, le premonizioni, gli oracoli. Come ti è venuta appunto questa atmosfera sudamericana, se così possiamo definirla? Anche se in realtà la tua scrittura è molto diversa da quella dei sudamericani, perché non hai una scrittura barocca, anzi la tua è una scrittura molto netta, pulita, piana, però queste atmosfere? Sicuramente la mia esperienza come antropologa, io ho vissuto 3 anni sulle Ande peruviane, e quindi tutte queste atmosfere, questo rapporto col magico, con i sogni, con tutto quello che è l'invisibile, mi ha proprio abitato quando sono stata lì, e che di fatto mi ha fatto ritrovare anche degli aspetti della cultura contadina, anche di qui, di italiana. Quindi hai trovato dei legami, insomma. E infatti, quando tu descrivi le tue protagoniste femminili, per esempio, dici che prima che tu diventassi un oracolo, questa è Nina che si rivolge alla nonna Teresa, nessuno aveva insegnato alle donne della mia famiglia come scegliere. Così avevamo trovato da sole il modo per farlo. Diciamo che ognuna segue la sua strada per fare le scelte nella vita. Allora c'è Rosy, la cugina, che segue i precetti del cristianesimo. Irene, che poi è la mamma anche di Nina, che ascoltava i sogni. C'è Flora, la seconda figlia, che cercava nei libri, una donna molto appassionata di cultura. C'è Pilar, che lasciava andare le cose per il loro verso, sapendo che era così la vita nella terra da cui proveniva, il Perù. E poi infine c'ero io, tua nipote Nina. Non sceglievo, facevo scegliere al caso. Ecco, che rapporto hanno queste donne con la Teresa che sta zitta per 10 anni? E queste donne sono, per me in qualche modo, sono un po' degli archetipi, sono delle persone che potrebbero essere un po' archetipi di modi diversi di rapportarsi alla vita e anche alla scelta. Questo romanzo parla proprio della difficoltà di scegliere, che è effettivamente qualcosa che penso che ognuno di noi si pone nella propria vita, di come scegliere le cose, prendere delle decisioni nella vita. E ognuna di questi personaggi è un po' appunto un archetipo di un modo di farlo, Teresa diventa un po' il polo di attrazione di tutte queste forme diverse di scegliere. Lei aiuterà però a ognuna di loro a sbloccare qualcosa che impedisce comunque la scelta per ognuna attraverso di loro. Diciamo degli oracoli che tra... Lei non parla fino all'ultimo, anche in punto di morte non parla, però diciamo trasmette in qualche modo degli oracoli, dà delle risposte a delle domande che queste donne si stanno ponendo. E allora così scopriamo degli eventi del passato, perché anche Teresa ha un segreto fondamentale che si svela solo alla fine. Per esempio c'è una delle storie che mi è piaciuta particolarmente, che è quella di Flora, che ricorda, si capisce insomma, che da ragazza avrebbe voluto studiare, si era innamorata di un ragazzo, e poi però il padre di questo ragazzo interviene in modo piuttosto violento. Flora è una che ha accettato poi il suo destino? È accettato con sofferenza. La sua storia proprio mostra, come poi molte storie, che ci sono a volte degli eventi nella vita che bloccano, come si crea un nodo, che è qualcosa che potrebbe anche essere sciolto in quel momento, ma non ci si riesce, e poi ce lo si trascina tutta la vita e magari ci condiziona tutta la vita. Poi a ritroso uno dice, okay, se fossi riuscito in quel momento a superare quella cosa. Però ci sono tanti nodi che ci bloccano, e questo libro parla molto anche del senso di colpa. Tantissimo, una delle prime cose che ho segnato nei miei appunti, senso di colpa, cioè tutte le protagoniste femminili di questo romanzo in un modo o nell'altro parlano del senso di colpa. Perché? Io credo che il senso di colpa nella nostra cultura, comunque, anche questo come antropologa l'ho visto proprio nell'analisi di tante società che invece non hanno avuto il rapporto, per esempio, col cristianesimo come l'abbiamo avuto noi, il cattolicesimo, che per quanto possiamo anche non essere credenti su un certo tipo però di cosa, però siamo figli di quella cultura. Effettivamente il senso di colpa è qualcosa che ci portiamo dentro, al di là di quello che noi possiamo affermare come ideologia o come pensiero. E soprattutto, secondo me, la dimensione anche femminile e il senso di colpa hanno un legame molto forte. Le donne tendono ad avere più sensi di colpa rispetto agli uomini, da un punto di vista proprio appunto antropologico, culturale, insomma. Beh, credo che ci siano dei temi su cui le donne più facilmente ricadono in questa idea del senso di colpa. Infatti era, per me questa storia era proprio volere un po' guardare questa emozione, che non so neanche come chiamarla, se emozione, se però qualcosa che ci abita al di là di noi e che è difficile anche realizzare, che ci condiziona. E quindi era un po' voler trovare dei modi, inventare dei modi per sviare questo senso di colpa e anche condividerlo condividerlo, ecco, per dissimularlo in qualche modo, per scioglierlo. Teresa è una donna che ha dei sensi di colpa, Teresa è una donna che ha dei segreti, così come appunto le sue figlie, la cugina, insomma tutte le donne che le stanno intorno. C'è un altro episodio molto bello di questo romanzo, quando si ricostruisce quello che è successo a Irene quando era piccola, aveva 2 anni. Irene è nata con 6 dita ad un piede e all'altro, quindi complessivamente 12 dita. C'è questa scena anche molto cruenta, anche qui le atmosfere sudamericane ritornano, del padre che decide di farle amputare così, quasi senza anestesia, eccetera. E Teresa, quando scopre che sua figlia è stata mutilata, ha un moto proprio di stizza, di odio profondo nei confronti di suo marito. Ecco, è una scena importante di questo romanzo. Sì, è una scena importante e sicuramente lì Teresa si sente in colpa di non aver difeso sua figlia, di non aver potuto difenderla da questa azione che è estremamente violenta, ma si sente anche in colpa di poi continuare a vivere al fianco di quest'uomo che aveva fatto quella cosa a sua figlia. E questo è un po' il gioco che a volte anche lì che ci imprigiona. Diciamo che lei forse non avrebbe mai scelto quel marito no. lì, mettiamola così. Di più poi c'è tutta la tutta cosa che si scoprono. Le scelte, quando le scelte dipendono anche da altri, che viviamo delle scelte che non sono state poi nate da se stessi. Insomma, erano anche altri tempi, quindi sì. Erano tempi in cui non si sceglieva esattamente chi sposare. E poi a un certo punto c'è una sorta di ninna nanna, canzoncina che compare. Noi non possiamo dire niente di questa ninna nanna, ma vi diciamo solo che inizia con camicina nera, camicina nera. È una ninna nanna che realmente esiste o te la sei inventata? È una ninna nanna che mi sono inventata. Funzionale, chiaramente, al romanzo. Sì, però è come lì era proprio una ninna nanna, che l'idea che a volte ci sono delle memorie che escono da chissà dove, che magari ci sono delle cose che abbiamo ascoltato da bambini che poi abbiamo dimenticato e che poi riaffiorano così, improvvisamente. Improvvisamente, così come affiorano appunto ricordi, sogni, premonizioni in tutti questi personaggi femminili che accorrono al capezzale appunto di Teresa che sta per morire. Grazie allora ad Arianna Cecconi, ora in libreria con Teresa degli Oracoli, la tua opera prima, quindi in bocca al lupo anche per la tua carriera di scrittrice. Grazie. E pubblicato da Feltrinelli. E anche per questo appuntamento breve con Il Cacciatore di Libri è tutto. Vi ricordo che potete seguirci sui social, siamo presenti su Facebook, alla pagina ufficiale Il Cacciatore di Libri trattino Radio 24. E trovate tutte le puntate, sia queste brevi che quelle lunghe monotematiche del fine settimana, in podcast su radio24.it. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.